carbone. Animale per Alexa in pizzeria. E glielo ho chiesto, tutto il ridente. Siamo attimo che mi misuro la glicemia. Due strisce solo mi sono avanzate, ce l'ho per adesso e per dopo, e finisce. E vai per, come faccio io quando le finisco vado così a brittico, so più o meno quello che mangio e in base a quello che mangio mangio di meno, capito? Di modo che non mi salga troppo. Ma io sono sotto controllo, devo fare due volte alla settimana questo controllo qua. Se non ti batto il controllo come lo fai, scusa? Devi birare, spice che c'è la vacca di là. Adesso lunedì quanto ne abbiamo? Non lo so. Allora, domani 17, 28, 29 lunedì. Lunedì telefono al centro diabetico e glielo dico che a me non mi bastano perché ne trovo difettose e ce le devo buttare, e per fare le misurazioni me ne serve almeno un'altra scatola, se no non mi bastano, gli dico. No, vai direttamente tu che te le danno lì stesso le strisce, come hanno fatto con me. Io sono andato e me l'hanno date loro le strisce, me l'hanno dato, vedo, aspetti che ce l'abbiamo, che marca c'ha, no, fatti la cosa, la boccetta, così c'è la marca, se no ti la metti magari. Sì, ok. Ah, ci vai, ma tocca andare a Rizzedu. Canta lì. Ma non manco uno rimbaghi, costa un sacco di soldi lì, se vai a comprarle costano 11, 13 euro, una cosa del genere. 17 costano le mie, 25. E vedi, qualcuno ma va ando, ve lo dico che a me non mi bastano le strisce, aumentarle, perché il giorno uno se no me ne dà una scatola solo a me. E poi dice se ce l'avete qualche pacco da darmi adesso, quello d'arte loro ce l'hanno sempre fisse nel mobiletto, ce le hanno perché le date a me, è capito? Il mobiletto lo ce li hanno. Quindi te le danno se non ti preoccupare. Ma buon Natale, vai, se devi mangiare, vai, ci sentiamo magari domani, dai. Tanto non è entrato nessuno, anche io vado, dai. Scendo giù col cane e poi mi farò qualche cosa da mangiare. D'accordo, dai. Buona serata, grazie per il consiglio, ci sentiamo. Ciao già, ma il sabato aperto sarà il centro diabetico. Non lo so, questo non te lo so proprio dire, ma non penso. E allora ando una manzana, dai. Non mi dici come andare, verso sicuro. Se ti dice adesso le aumentiamo, tu gli dici, ascolta, ma per il momento qualcuno me la può dare, così te la danno. E infatti, punto il dito con almeno una scatola, se no mi tocca comprare mira, ragazzi. E io una volta li ho spesi quei soldi, perché mi servivano urgenti, là. Non stavo bene, quindi ho dovuto misurarmela. L'ho comprata e via. Così ho fatto io l'altra volta, ma costano 17 euro la cattura. Sì, ma infatti non conviene comprarli. E guai se non ce ne dessero l'antalì, guai! Sì, ma chissà, una cosa hai fatto? Un'insulina azzurra, una notte, una scatola sola al mese, cosa mi va? Niente! Se ne trovi qualcuna difettosa, non t'abbassani! Non so che dire, dico che fa come ti ho detto io, ma te ricordai che non ti ripeti. E infatti l'uni ando, lei non ando, ti vediamo a vedere. Andrà bene, andrà bene. Ciao ragazzi. Beh, se ci sei più tardi ci sentiamo, là. Adesso stiamo preparando qua. Andare, ciao Natali. Ciao già. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola, 1, 2, 3, 4. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno che cambia. Canale 10, cambia. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thank you. chi è? Lessi, Franco, sono, ciao. Ciao Franco, come va? Va bene, dai. Ci andiamo un po' a scaldare un po' di... un po' di transistor. E tu come va? Sì, così così. Che altro? Sono la freddata, mal di testa, boh. Non lo so. Ho sopeso freddo ieri, pulendo, qua a casa. Male di stagione, dai. Anche la signora qui è un po' raffreddata. Speriamo che non attacchi. Sei arrivato bene, complimenti, dottore. Sto usando il 140. Bel segnale, non sei mai arrivato così forte, boh. Lo so. Beh. 140, non è come avere il tornado, no? Capito, con le 4.000. Quanto sei adesso come potenza al massimo? 15. Quanto? 16? 15 watt sono, tondi tondi. Con picchi a quasi 50. Caspita, è come antenna, Mantova? Sì, serve la Mantova, non l'ho toccata, no. Non solamente gli ho messo i tirarsi, come si deve, perché hai visto, non è che ti puoi fidare molto, no, a lasciare l'antenna, capito, sta al vento, eccetera, eccetera, è cambiato tutto, non è più come prima, no. Una volta si poteva anche lasciare il palo senza tiranti, adesso non ti puoi permettere quello. Bastava una passata di vento a tipo ciclone e te ne butta tutto in terra. Vuoi vedere tirantare anche l'antenna, qualcosa in nylon? Sei sicuro che non si muove? E quello sì, infatti già è tirantato l'antenna. Ce l'ho già 2 anni, no, quindi... quindi 4 anni c'è, mi sembra, su, sul tetto, non ho mai toccata. Adesso quando c'avevo un po' di soldi mi compro anche la nuova, mi prendo e vediamo un pochettino. Aspetta che non va bene questa qua, sta uscendo bene, perché la tocchi? E tu conta che io c'ho una finestra qua, e una volta mi ha aspettato il tubo dove la infilo, io ho una finestra tipo un reggicanna dove infilo il paletto dell'antenna, e la punta arriva a malapena nel sottotetto della grondaia, e il vento che entrava di lato mi ha spezzato quel tubo. Ah, capito. No, mi voglio prendere un'antenna nuova e mettermela da parte, ho detto, ma poi in seguito quando sarà, cambio il tubo, anche perché il tubo è un tubo d'acqua ossidato, capito? Quindi non è che faccia tutta questa gran massa come palo. Un bel tubo, quelli zingati, grossi, da quanto si può mettere, non dico da 2 pollici, da 1,5 pollici. No, da un pollice ce l'ho io. Ce l'ho che la staffa è già piazzata, la staffa a pezzetta di parabola. Capito? È piazzata lì, però può essere piazzata dove c'è la pipetta, è piazzata proprio attaccata al muro. E capito, con due staffette. Perché lì una volta che c'era la parabola prima, l'hanno staccata, l'hanno messa più indietro. Capito? E non riuscivano a cavare nei piedi questi tipi, ci sono saliti roba di 6 volte, poi grazie per la mano me ne sono accorto, volevano in pratica installare la, togliermi la manto, va a casa e attaccare la parabola del condominio, io va tutto qua dall'altra, l'ho detto da lì, l'ho fatto qui, ho detto, e quella è la mia. Fai 2 buchi nuovi, ti copri la strappa e me ne c'è la culo, ho detto. Ah, ma chi volevano già la pappa pronta, no, poi meglio che sia un po' distante da quelle antenne lì, la puoi giramente, che disturba. Se è una cosa allucinata, ne sei tu su con la catastagnola, ha messo la catastagnola dentro sopra l'illuminatore, cose che dice il tecnico, ha detto il principale loro, dice mettici la catastagnola così almeno non disturbate le macchine. Ma ha detto, ma cosa sei scemo o cosa, gli ho detto, ma cos'è? Dove cazzo l'hai fatto il corso di elettronica, gli ho detto. Bene, gli ho detto, l'hai fatto. No, io la metto sempre, ma non le metto, cosa hai detto, vuoi fare il nuovo strapazzato, ho detto, con la catastagnola, gli ho detto. Allora, che poi la roba metallica addirittura ha l'effetto contrario, potrebbe attirare la radiofrequenza. Non è quella, no. Potrebbe attirare i fulmini, potrebbe attirare, perché già lo sai, la parabola attira i fulmini. Quindi se metti la catastagnola agganciata all'illuminatore, se dovesse passare per sbaglio, già lo sai in che punto sono io. Io sono al centro, ho di più ripetitori telefonici della 5G, belli grandi, poi c'ho il parafulmine, come si chiama, e c'è al Conti, e dall'altra parte c'ho i tralicci. Quindi sono più alti di te? Per un attimo. Se lasci a 15 watt, poi sarei fino a 40. No, questo invece, quando scalda si muove leggermente la frequenza, praticamente scende appena appena, invece che 7,5 lampeggia 7,4. Vabbè, quella è una cosa normale di quegli apparecchi. No. È il transistor che scalda, capito? Lo stabilizzatore che c'è dentro al frequenzimetro, non è niente di preoccupante. Mi rompe le scatole quando sono in banda laterale, siccome quando arrivo al centro fa lo scatto, no? Se è leggermente spostato, tu vai a spostare, tu sai che lui se ne va di nuovo in posizione centrale perché c'è la molla. E quella è una rottura di scatole, lui. Sì, ma questo effetto lo fanno tutti, fa il coso, il Galaxy Plus. A volte lo fa anche Saturn, ecco, dipende, quello che c'avevo io non lo facevo una cosa del genere, Saturn, ecco, perché l'avevo controllato tutto, gli avevo messo un dissipatore, un transistor, e quindi dissipava il calore e rimaneva sempre stabile. Siccome nel frequentimetro c'è un 78.095, mi sembra che, e quando incomincia a scaldare, siccome non c'è la dissipazione sua, allora quando scalda comincia a saltare leggermente, ma il frequentimetro, però la frequenza è sempre quella, capito? Solamente la rottura del frequentimetro che non è stabile. No, non è frequentimetro, perché quando io parlo con un altro mi dice che sono fuori, se io invece lo correggo, quello in trasmissione, lo correggo appena appena, lui mi ascolta centrato, quindi vuol dire che proprio è da regolare, ma questo non è stato mai toccato, mai fatto una revisione. Vabbè, è una cazzata. Dove c'è il commutatore dei canali sotto c'è un trimmer di colore blu sotto e bianco sopra, quello serve per, c'è scritto anche, per la regolazione della frequenza, hai capito? Per fargli la taratura. Va bene, come dici tu, non è una cavolata, però se dovessi farlo lo darei a qualcuno che ha lo strumento e fa tutto. tutte le regolazioni con quegli strumenti dovuti, dai, necessari. Vabbè, il film è di cambio, fai prima poi di fare la regolazione con frequenzimetro per tutto, capito? Non è quello il problema, ci vuole cosa, gli strumenti adatti ci vogliono, non è che lo fanno così, o piometro. Infatti anche l'FM mi accorgo che non è più come prima, anche lì ci sarà qualcosa da regolare. Oh, dopotutto sono apparecchi che hanno 40 anni. E appunto per quello, figurati, sono apparecchi vecchi, io ce l'ho più di 20 anni, il mio 2009, quando c'ha problemi l'FM, c'ha di ricezione, adesso bisogna che uno di questi giorni lo porto a fargli fare la taratura da un amico mio tecnico, così io faccio regolare, capito? Cerco il servizio, così si regola e me lo fa direttamente. Aspetta che faccio carica batteria, ci sentiamo fra una mezz'oretta. Anch'io faccio un po' di carica batteria, dai, non so come si rientro, Poi mi fai sapere chi è il tecnico, chi c'è a Sassari che può mettergli in mano questi apparecchi? Questo è un samurai, ma è come il Pluto, come il Galaxy, dai. Sì, c'è Vittorio che li fa, poi chi c'è? Fabrizio, mi sembra. Altri non me ne ricordo. Ma li fanno ancora, sì? Sì, a quanto so io già li fanno ancora. Una volta faceva Mario Ottani, ma è sparito la circolazione, non ho più visto quello. Vabbè, dai, ti lascio la buona carica, buon tutto, alle prossimine, ciao ciao. E altrettanto, ciao ciao. Luca, è tondo, è tondo, è quadrato, Mi sono arrivato, vabbè, però a lavoro, mi sto cenando, poi devo fare la doccia, mi ha chiamato un amico, ho un problema al televisore, praticamente non c'era un segnale in cameretta della figlia, la compagna, vabbè, forse può uso migliore. Cazzo, no, con la scatola c'era il cavo tagliato, allora da lì mi devo congiungere al cavo che c'è, cioè, metto il cavo dalla scatola, passo per la porta e vado direttamente lì alla presa, metto un tiro e gli do segnale, questo glielo faccio mercoledì però. Anche qui l'altro giorno c'era un signore che aveva invitato per noi, non vedeva niente, allora ci hai messo quelle antennine amplificate, delle tipo la pinna di squalo, però una parte funzionava, però l'altra parte del giardino non vedeva il ripetitore, non funzionava. E cosa c'era? L'antenna di su, c'era il cavo tagliato, c'era il vento l'ha staccato, era tutto marcio. E quindi siamo saliti, gli ho dato una mano anch'io, mi ho cambiato il cavo e è tornato tutto come prima. Ho dato uno sguardo anche il mio si sta già iniziando a screpolare. Le temperie, purtroppo, invece se è sotto corrugato ti dura di più. È quello che stavo pensando, trovare un corrugato sottile che ci passi quel cavo della... Io uso il cavo per parabola, no, quello buono, beh, è più sottile, però è bene, è schermato, ci un video rame anche. E metterlo con un corrugato sottile. Beh, certo, certo. E vabbè, ti dura di più, è più protetto. E ti dura una vita. Ho visto che le antenne ancora sono bene, poi le avevo bene isolate, anche i cappuccetti. Oltre al cappuccetto gli ho messo anche il vulcanizzante, di acqua. Poi il miscelatore ce l'ho sotto le tegole, quindi dentro nel sottotetto per evitare acqua. Sì. Ma non ho capito perché quel cavo lì l'hanno tagliato, non ho capito perché. Una casa grande, c'era un attico. Ma sembra tagliato a lama, a furbice, a coltello. È interrotto dentro la scatola dove sono i fili della corrente. Hanno fatto passare il cavo della televisione nei fili della corrente. Col gatto a parte. No, il gatto è a parte, se no insomma qualche disturbo lo prende. E non so perché l'hanno tagliato. Capito. Sono stanno loro, Lì ci vorrebbe un battitore di segnale, per non perdere molto segnale. No. No, assolutamente no. Altra è centralizzata. Arriva dentro casa, ma poi il segnale va diviso per le camere, così. Sì, ma c'è l'amplificatore nel palazzo, non c'è bisogno. Non lo so, dipende dalla forza che c'è il segnale. Se è forte ce la fa dividerlo in 3, 4, adesso non so quanti punti abbiano per le camere. Oh, c'è una tetta di 3 TV, ma se mettono un amplificatore di quelli da palazzo, quello prende tutto. Poi non c'è manco bisogno perché il motore ce l'hanno di fronte, capito? Sì, io addirittura qualche anno fa avevo problemi, quando è passato in digitale, se mi squadrettava il segnale, eppure c'è tutto nuovo, amplificatore nuovo, e invece cos'era? Era troppa potenza, meno male c'era il guadagno regolabile, l'ho portato a zero, ho finito i problemi. Immagino questo cazzo di segnale TV, Guarda, se ti va bene, se sei fortunato, ma a volte quando devi andare male non sai più dove sbattere. Allora, ho eliminato tutti i partitori, ho messo i cavi diretti, guarda, nulla, ho eliminato tutte le possibili eventuali magagne, nulla. E cos'era? Era troppo segnale invece. Ma troppo segnale è un casino. Sì, e, come si dice, il troppo struppia. Il segnale deve essere giusto. Io sono a Monte Oro giù di fronte, lo vedo senza nulla. Se vedo un pezzo di filiferro nell'antenna dentro casa, qualche canale lo prendo, figurati. Ci vuole praticamente un attenuatore di segnale. Ti faccio un esempio, chi abita a Canica, essendo lì Monte Oro, l'antenna è lì, ci vuole un attenuatore di segnale, perché il segnale arriva troppo forte. Sì, questo c'è il guadagno regolabile, no? Da zero, non puoi portare neanche a zero. E quindi ti taglia un po' il guadagno. E poi se poi hai problemi aumenti. Invece io ho problemi contrari. E ho risolto tutto, dai, adesso è tutto ok. Adesso fra qualche anno cambierò il cavo. Come si dice? Lo collego con un pezzo di nastro, sfilo uno e infilo l'altro, dai. Tu gli metti. Quale? E il cavo dell'antenna che ho visto che si sta screpolando, siccome per non salire con la matassa su faccio un allaccio, collego il nuovo al vecchio, faccio tirando uno e sfilando altro. Ma io non ho questi problemi, se marcisse li ho cambio direttamente, saranno tipo 10 metri. E io sono 25-30, dai, non di più. Una trentina di euro, 28, 27 euro. Non mi ricordo, ho preso quello buono però, sottile, invece quello che abita sotto noi ha messo quello un po' scarso, molle, grosso. Vabbè, risparmio, dai, uno fa quello che può. Capo di bricco, ma cavo cinese. Sì, io metto quella, come si chiama, da Grassi, quello per parabola. Almeno ti dura 10 anni almeno. Lo so. Ho visto che le antenne sono buone, quindi cambierò solo quello da calata e basta, dai. È un casino questo cazzo di antenne, ma... Vabbè, comunque sono riuscito a trovare il problema, dai. Perché io la volevo mettere una parte in cameretta, però... troppi giri di cavo, bucare il muro, un casino. Ho trovato il sistema, vi vado a collegare quello che c'è in camera da letto. Metto un T, attacco lo spinotto, via, è fatto. Ehi, guarda, tu quelli piccolini ci sono, che sono in metallo, non so se li conosci. E lui sono per le parabole, hanno gli attacchi con la filettatura. Sono più piccoli, più sicuri pure, che non si muovono. Sì, ho capito, si usano quelli sono i, penso che sono i migliori, dai, rispetto a quei tiri che facevano prima in pace, che non si vedeva niente. Questi sono a bassa perdita e in più sono più piccoli anche. C'è un po' di propagazione, no? Solo lo squelci. Sento una cosa, forse è FM, ma qui arrivano a livello QRM proprio. E poi quel televisore te l'hai cambiato, quello cos'era? Un 55, cos'era? Il mio? Ehi, cosa avevi? Uno Sharp, cosa mi avevi detto? No, i Taci. Ah, i Taci erano, non ricordavo Sharp. Lo volevi scambiare con qualcosa di più piccolo forse? Com'è? No, ho fatto lo scambio, eravamo più piccolo o più grande. No, ho lo donno. Ah, il contrario era. Ehi, ho fatto lo scambio. E cosa mancava? Il telecomando? Un problema avevi? No, nulla. Sai quando mancava solo il tappo della batteria e basta. Ah, il tappo della batteria. Allora, vabbè. Si vede alla grande, quindi. Mi sembra che fosse un 4K, cos'è? Esatto, no, si vede benissimo, no, alla grande. No, giocato, ma gioco a posto d'orla. Ho detto a questo qua a fare i panini. Cazzo, siamo tante ore, dalle 9 del mattino fino alla sera. Minchia. Da morire proprio, domani. C'è il granerietto domani? Sai proprio che mi sogno le ore. Ma che è successo qua? Aspetta un attimino fra. Cazzo. C'è solo qualcosa. Remover. Cosa è successo? Vediamo un po'. Aspetta. Ah, ok. Ma tutto questo problema. No, io vedo tutti i canali, tutti, non ho problemi. Si vede benissimo, da Dio, poi vabbè, 55 pollici. Quindi ti hai visto la finale l'altro giorno in alta definizione? Appena. Mamma mia, però minchia, una sofferenza, attaccavano di brutto, sembravano, cioè avevano una marcia in più comunque. La Fiorentina li ha crepati, no, li ha crepati, detto da un interista, li ha crepati. Sì, non c'è andata bene quei due gol, io quando ho visto che stavano perdendo 1-0 sono impossibile, mamma mia, invece due perette e via, dai, e poi a soffrire in difesa, no, troppe palle buttate così avanti, troppe palle sprecate, ci manca ancora qualcosa. Lo so, tu ti hai visto? Sì, sempre stato, da piccolo. Non hai visto, un casino. Beh, sai che fra, io cosa devo fare? Ci sei dopo bene, io mi devo fare una doccia, mi gioco tutto, guarda, stavo tagliando l'edera, sai che l'edera si accumula la polvere. Io devo lavarmi da poco fa, poi mi ha chiamato questo amico che aveva un problema all'antenna, quello che stavo parlando prima, e niente, mi devo lavare e forse ti so uno schifo. Ehi, a capo, dai, no, anch'io, dai. Perché sei entrato più a fare due chiacchiere, sennò che stavo chiudendo. Stanno bene, dai, un abbraccio e forza Inter sempre, dai. Ciao. Ehi, yeah.